Buongiorno, come stiamo? Bene, benissimo. Allora, voglio subito dire che per tutti coloro che stanno frequentando il percorso 1, posso vedere le mani di chi sta facciamo prima di tutto un applauso a questi meravigliosi fratelli e sorelle che abbiamo. E noi pregheremo per Ecclesia, per gli ospiti, per tutte le chiese che verranno al percorso. Ok, quindi domani per tutti coloro che fanno il corso, l'appuntamento non è qui con il pastore, è con me in via Santa Lucia. Ci siamo? Benissimo, benissimo. Sono così contenta di essere qui ed è per me un grandissimo onore quello di ascoltare da parte di Gesù quello che è il suo cuore per la sua Chiesa e avere la grazia e l'opportunità di condividerlo con voi che siete la mia famiglia. E, come ho accennato, un paio di settimane fa abbiamo incominciato il percorso 1, no? Che è un corso di circa 8 settimane dedicato a tutti coloro che vogliono sapere un po' di più della fede. E quindi lì, in quel contesto, per una volta alla settimana, per 2 ore, affrontiamo argomenti come per esempio quello della grazia, del perdono, del peccato, dell'importanza della Chiesa, del battesimo, della Bibbia e anche della preghiera. E la volta scorsa Natalie, che purtroppo non è qui, però ha insegnato in maniera proprio meravigliosa sulla preghiera. Questo potrebbe essere un'occasione meravigliosa per me di mettere in imbarazzo tutti quelli che fanno parte del corso, cioè chi già abbassa lo sguardo, per vedere un po' quanto siamo stati attenti. Carmine, non ti preoccupare, non ti faccio nessuna domanda. Però una cosa abbiamo imparato e abbiamo sottolineato a più non posso, che Dio ascolta le preghiere dei suoi figli. Dio ascolta le preghiere che noi gli rivolgiamo e non c'è nessuna eccezione. Non solo il Signore Gesù ascolta le nostre preghiere, ma Lui anche risponde ad ognuna delle nostre preghiere. E lo sappiamo, questi sono, diciamo, i versetti che impariamo a memoria, che sono i primi versetti che impariamo a memoria, perché costruiscono e sviluppano la nostra fede. Vediamo, facciamo un esercizio. Io, esattamente, qualsiasi cosa chiediate nel mio, io la farò. Se chiedete tutto, qualsiasi cosa, con un cuore pieno di fede, io la opererò, la farò, insomma, dipende dalla versione che leggete. Però ci sono centinaia di versetti che ci promettono che non servono preghiere articolate, non servono preghiere troppo lunghe per attirare l'attenzione del nostro Dio, non c'è il tono perfetto di voce per farci ascoltare, non c'è la posizione perfetta delle mani, non lo so come le devo mettere, così, così, concerte, non lo so, non c'è niente di tutto questo. Dio ascolta le preghiere che vengono da un cuore sincero, che vengono da un cuore onesto e che vengono da un cuore aperto, no? L'abbiamo sperimentato. Quanti hanno ricevuto una risposta, almeno una risposta a una delle preghiere che abbiamo rivolto al nostro Gesù? Vedete? Non è teoria. Ragazzi, non è teoria. Questo è vero, questa è vita vissuta. Dio ascolta e risponde alle nostre preghiere. Tante volte, però, probabilmente abbiamo invocato e nessuno ci ha risposto. Tante volte abbiamo chiesto con il cuore pieno di fede, Signore, opera in questo, però non è successo nulla. Tante volte probabilmente ci siamo ritrovati a chiedere un miracolo, una soluzione, un qualcosa nel nome di Gesù, come la Bibbia ci insegna, però non c'è stato nessun riscontro. A quanti è successo? Bene, meno male. Cioè, non meno male che non vi ha risposto, meno male che non sono l'unica. E tante volte ci chiediamo, ma insomma, ma queste preghiere sembrano cadere un po' nel vuoto. E ci convinciamo probabilmente del fatto che in fondo, Il Signore ascolta un po' di più a quello che mi sta seduto accanto. Io tante volte, specialmente nell'ultimo anno, ho detto: Luciana, per questa cosa prega tu che a te il Signore ti ascolta di più. Luciana, per questa cosa prega tu che a te il Signore ti risponde. E chiaramente era una battuta, era un dire sarcastico, però sotto sotto, dietro quel dire, dietro quello scherzare, dietro quella battuta sarcastica, c'è un po' quel pensiero: ma non lo so, il Signore probabilmente non ascolta infine tutte le preghiere, e certamente non risponde a tutte le preghiere che noi gli rivolgiamo. Abbiamo mai pensato questo? Siamo onesti qui, ok? Qui a casa, in famiglia, possiamo essere onesti. Il fatto è che quel modo di pensare, quella mentalità che un po' si sviluppa nel nostro sì, approcciarci anche a Dio, è una bugia. Perché se la Bibbia dice che Dio ascolta tutte le preghiere, Dio ascolta tutte le preghiere. Se la Bibbia dice che Dio risponde a tutte le preghiere, Dio risponde a tutte le preghiere. E qualsiasi cosa che si distacca da questa verità è una bugia che ci vuole scoraggiare e ci vuole portare a pregare un po' di meno, a crederci un po' di meno, a intaccare, quelle bugie vanno ad intaccare la relazione così profonda, così intima, così buona che noi possiamo avere con Gesù. Dio risponde a ogni preghiera che esce dalla nostra bocca, che sale dal nostro cuore, e risponde generalmente in tre modi. Ma come, Noemi, tutte le domande che gli faccio non è possibile, ci sono solo tre risposte? Sì, sono tre risposte. Gesù, Dio, risponde alle nostre preghiere dicendoci o sì, o aspetta, oppure no. È così. Noi possiamo chiedere qualunque cosa a Gesù, e Gesù, in accordo con la volontà di Dio, ci risponderà o sì, vai, sei coperto, a posto, o aspetta, non ancora, oppure no. Allora, dobbiamo essere un po' onesti. Se siete anche un po' simili a me, io già con l'aspetta già non vado molto d'accordo. Cioè proprio. E già lì diventa un po' complicato, no? Ascoltare questa risposta. Perché Dio risponde, ma molto spesso la risposta che ci dà non è quella che vogliamo noi. E quindi aspetta, va un po' a lavorare sul nostro bisogno, per esempio, di crescere in pazienza, di crescere in costanza nella preghiera, o di crescere magari in sottomissione, in autocontrollo. Tutte queste parole che proprio non ci piacciono, ma che sono poi il risultato dello Spirito Santo che vive in noi e del suo frutto che cresce, cresce, cresce in noi e benedice la nostra vita, e con la nostra vita poi noi possiamo benedire anche la vita degli altri, come abbiamo ascoltato domenica scorsa. Quindi già con gli aspetta non andiamo molto d'accordo, ma incassare un no, e allora lì è tutta un'altra storia. Quanti sono d'accordo? Sono nella chiesa giusta? Ci apparteniamo, siamo uguali. Incassare il no è veramente qualcosa di abbastanza difficile, perché va proprio a contrastare la nostra natura umana. Incassare il no vuol dire che poi devi ubbidire, anche quando non ti piace. Vuol dire che ti devi sottomettere alla volontà che Dio ha e che è diversa da quella che tu hai e da quella che tu hai espresso nella tua preghiera. E quando dobbiamo incassare un no, quindi quando il Signore ascolta la preghiera e ci dice no, tre cose tendiamo a fare, o perlomeno io queste tre cose le faccio, diciamo, sempre. La prima cosa è che facciamo finta di non sentire la risposta. E quindi il Signore ci dice no, e noi non ascoltiamo, facciamo finta proprio che, e quindi continuiamo, continuiamo a pregare per le stesse cose, a chiedere la stessa cosa, e il risultato è che ci blocchiamo in quella situazione per la quale Gesù ha già decretato la sua volontà. È un po' come il mio bimbo Valerio, 6 anni, prima elementare. È un bimbo molto molto che io voglio molto bene a questo bimbo, ma proprio mi fa perdere la pazienza. E quindi succede questo, che io entro in classe, dopo 2 minuti di lezione Valerio viene e dice: maestra, devo fare la pipì, devo andare in bagno. Ok Valerio, vai, mi raccomando, non troppo tempo, per poi non segui più la lezione. Ok. Va, rientra, dopo 2 minuti, ritorna: maestra, devo fare la pipì. No, adesso no, adesso ti siedi e quando finiamo allora poi vai, durante l'ora di ricreazione. Maestra, devo fare la pipì. Maestra, devo andare in bagno. Maestra, posso uscire? Maestra, devo fare la pipì. Maestra, maestra, maestra, Valerio, ti ho risposto già. Sì, maestra, ma la tua risposta non mi piace. E questa è una storia vera, ed è una storia che si ripete ogni settimana. E quante volte noi facciamo la stessa cosa con Gesù? Noemi, no. Signore, dai, signore, ti prego per questo. La settimana scorsa ti ho già pregato per questo, ma ti continuo a pregare. La voglio veramente questa cosa. E ci blocchiamo. E le stagioni passano e Dio ha tanto altro in più da darci di nuovo, e noi invece stiamo ancora a chiedere quella cosa. Perché? Perché non accettiamo il no da parte di nostro padre. Quindi facciamo finta di niente, oppure trasformiamo la nostra preghiera in una tecnica di compromesso. No, non voglio dire compromesso, come ho detto, come ho scritto, grazie per i suggerimenti, negoziazione. Nessuno aveva... però. Preghiamo e trasformiamo la nostra preghiera in una negoziazione con Gesù, come quando andiamo al mercato. E il tipo ci dice: questa maglietta costa 10 euro. Dai, 10 euro, dai, facciamo 5. Dai, 6,50, 7, 7,75, 8, ok, la compro. E Gesù invece ha detto no. E però noi continuiamo a elencargli tutte le ragioni per le quali lui ci avrebbe dovuto dire di sì. Ci deve dire di sì, e cerchiamo di convincerlo e cerchiamo di plasmare la sua volontà alla nostra, e questo porta al risultato di frustrazione. Perché? Perché in fondo noi siamo figli di Dio, noi lo conosciamo nostro padre, e quindi lo sappiamo che possiamo negoziare quanto vogliamo, ma se lui ha decretato no, quel no rimarrà, e quindi ci frustriamo perché la nostra preghiera gira sempre intorno alla stessa cosa. Cerchiamo di far cambiare idea al Signore dell'universo, perché io, Noemi di 32 anni, voglio questo, e questo porta frustrazione perché non funzionerà. Oppure, quindi facciamo finta di niente, negoziamo, oppure teniamo ricevuto il no, non lo accettiamo e teniamo Dio al di fuori della situazione per la quale stiamo pregando. Siccome il no non lo accetto, ma me la vedo io. Signore, la mia vita è tutta tua, io dedico ogni cosa a te, il mio cuore è tutto tuo, ti voglio servire per tutta la mia vita, ma su questa cosa fammela vedere da solo, fammela vedere da sola. E il risultato di questo, sapete qual è? È il peccato. È la disubbidienza, perché se Dio dice, l'abbiamo imparato, no? Quando Dio dice A e io faccio B, quello è peccato, quello è disubbidienza. E sapete, se cioè, chiunque abbia seguito Gesù per più di 6 mesi ha ricevuto un no, e se non l'hai ancora ricevuto, allora preparati, perché starà per venire. Dio non risponderà di sì a tutte le preghiere che gli fai, a tutte le preghiere che gli rivolgi. Non risponderà di sì. Molte volte ti dirà aspetta, e molte volte ti dirà di no. E quindi vogliamo imparare, no? Ragazzi, Dio non vi dirà di sì sempre. Molte volte Dio vi dirà di no. E voi avete la grazia, la possibilità di imparare già da adesso come accettare questi no. E soprattutto il perché Gesù non ci dice sempre di sì. Vi interessa? Ci interessa? Bene, questa era solo la mia introduzione. Fantastico. Siamo in buona compagnia. Tantissime persone, tantissimi personaggi biblici hanno ricevuto un bel no da parte del Signore. E uno di questi personaggi, sapete chi è? Paolo, l'Apostolo Paolo. In 2 Corinzi, lo vogliamo leggere insieme, in 2 Corinzi, al capitolo 12, dal verso 7 al 9. E dice così. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana. Paolo la paragona, no? Questa carne la paragona come se fosse un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte, ripetete con me, tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri, continua Paolo, molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi in me. Tre volte. E stiamo parlando di Paolo. Cioè Paolo, non Paolo. Paolo è colui che da persecutore è diventato perseguitato e dalla sua conversione non ha fatto altro che dedicare ogni mese, ogni settimana, ogni giorno, ogni ora al Vangelo, a predicare il Vangelo. Paolo è colui che ha portato il messaggio di Cristo fino all'estremità della terra allora conosciute. Paolo è colui che ha scritto i tre quarti del Nuovo Testamento. Paolo è colui che predicava il Vangelo, che era integro, era conoscitore e facitore della parola, era colui che ha sofferto, è stato imprigionato, è stato inseguito, tutto per amore di Cristo, tutto per amore del Vangelo. E qui Paolo tre volte prega per essere liberato da questa spina nella carne e Dio gli dice no, la mia grazia ti basta. Ma no, non ti libererò da questa spina nella carne. Ora, molti studiosi hanno speculato su quello che questa spina della carne poteva essere, no? Non si sa bene, sono scritti documenti, saggi, ricerche, e questa spina è la cecità, e questa spina è un'infermità nel corpo, e questa spina è un peccato. Di tutto è stato detto su questa spina. E io sono arrivata alla conclusione che non lo so che cos'è questa. Ho letto e poi alla fine mi sono stancata di leggere perché ognuno diceva una cosa diversa. Non lo so che cos'è questa spina. Anzi, se proprio devo essere sincera, io fino a qualche annetto fa, ogni volta che leggevo questo passo e leggevo spina nella carne era per me. Cioè, onestamente, proprio quando si parla di chiedere, proprio interpretare la parola di Dio, non si sa che cos'era questa spina nella carne. Però una cosa sappiamo che portava a Paolo molto dolore, portava a Paolo disagio, fastidio, voleva essere liberato e guarito da questa situazione, da questo dolore, da quello che era. E secondo me non è un caso che sia stata lasciata aperta questa questione di che cos'è questa spina, perché noi possiamo leggere e possiamo immedesimarci in Paolo e quella spina nella carne può essere ogni cosa, ogni situazione per la quale noi abbiamo pregato una volta, due volte, tre volte, 10, 20. Ma la risposta è stata no. E quindi quali sono? Qual è la tua spina nella carne? Leggero il messaggio stamattina. Qual è? Quali sono queste preghiere che così tanto insistentemente abbiamo chiesto a Dio, ma il risultato non è stato quello che volevamo, quello che stavamo chiedendo. Può essere quella malattia, quell'allergia che da anni e anni e anni a novembre si ripresenta. Quel mal di schiena, anni e anni e anni, pregato gli appelli, in posizione delle mani, ma ancora è lì. Quel lavoro che abbiamo chiesto e Gesù, lo sai che io ho bisogno di questo lavoro, devo provvedere alla mia famiglia, lo sai, per piacere, apri tu questa porta, c'è questa opportunità, dammela, e poi quell'opportunità è sfumata, è stata data a qualcun altro. O quella relazione per la quale hai pregato e invece poi non si è risolto proprio un bel niente. Quel miracolo tanto richiesto. Tre volte Paolo ha pregato. E sapete, io sono stata un po' a pensare, non sono servite tre volte a Paolo per resuscitare il ragazzo, che quando lui stava predicando se n'è andata al sonno, è caduto dal balcone ed è morto. È una storia vera che è scritta nella parola di Dio. Non c'è scritto neanche che Paolo abbia pregato, c'è scritto che lo ha abbracciato e ha detto: ragazzi, tranquilli, tutto a posto, solo dormendo, andiamo che devo finire il messaggio. Non sono servite tre preghiere a Paolo per guarire i malati sulla strada. Non sono servite tre preghiere a Paolo per vedere delle città intere salvate. Una volta lo vediamo che prega per un qualcosa di suo, di personale, che lo faceva stare male, e il risultato non è stato grandioso secondo le aspettative che lui aveva. E Paolo avrebbe potuto pensare: oh, ma, cioè, signore, ma perché? Prego per gli altri e succede, prego per me e non succede. Forse non l'ha pensato, però io, se fossi stata Paolo, sicuro che l'avrei pensato. E quante volte l'abbiamo fatto noi? Signore, io, la mia amica e io, insieme non potevamo avere bambini. Abbiamo pregato, abbiamo chiesto il tuo intervento. Ora lei è incinta e io no. Perché? Signore, io prego per il mio ministero e per le promesse che tu mi hai dato, e prego insistentemente, e vedo che gli altri, che quello che gli altri fanno per te fiorisce, quello che faccio io per te a stento lo riesco a portare avanti. Signore, nei corpi degli altri, nelle famiglie degli altri, nella situazione degli altri, nelle amicizie degli altri, nelle relazioni degli altri, tu fai, e io? E perché a me no? L'abbiamo pensato? Allora, la prima verità con la quale io vorrei che fossimo equipaggiati questa sera, questa mattina, è questa. Ed è una cosa che Paolo aveva capito molto molto bene. Che Dio, che noi come figli abbiamo il diritto di chiedere, di insistere, di lamentarci e di chiedere da capo, abbiamo tutto il diritto, ma Dio come padre ha il diritto anche di dire no. E dobbiamo comprendere che i no che Dio ci dice, i no che Dio dà alle nostre preghiere, non sono dei no dispettosi, o non sono dei no capricciosi, o non sono dei no di favoritismo, a lei sì e a te no, ma sono dei no di un padre che conosce perfettamente il tuo cuore, che conosce perfettamente la tua situazione, che sa e conosce perfettamente la tua vita, e come padre ti dice di no. Perché? Perché sa meglio. È perché la tua vita è diversa dalla vita di chi ti sta accanto. Il tuo vero bisogno probabilmente è diverso dal bisogno di chi ti sta dietro, di chi ti sta avanti. E anche se tu non lo sai, perché certamente non lo sai, Dio lo sa. Ed è per questo che alcune volte ci risponde sì, altre volte ci risponde aspetta, e altre volte ci dice no. E noi dobbiamo imparare a viverli bene questi no. E lo impariamo quando ci ricordiamo che Dio è un padre, che Dio non è un datore di lavoro, non è quel datore di lavoro che non ti paga a fine mese. Dio è un padre ed è per questo che ti dice di no. Dio dice di no, chiaramente, indovinate quanti punti ho? 3. Dio dice di no generalmente per 3 motivi. Il primo motivo è perché lui, ascoltami bene, ha una prospettiva più ampia della tua vita. Tu conosci il passato, se te lo ricordi, e il presente, ok? Dio conosce di te il passato, il presente e il futuro. Lui ha una prospettiva molto, molto più grande e lui, ascoltami, lui conosce le conseguenze delle tue preghiere. Tu no. Ecco perché hai il diritto di chiedere, ma lui ha il diritto pure di dire no. Dio non ti dirà mai di sì se quel sì potrebbe mettere in pericolo la tua integrità. Potrebbe mettere in pericolo la tua purezza, potrebbe mettere in pericolo la tua dipendenza da Dio. Dio non ti dirà mai di sì, perché lui ci vede più lungo, perché lui ci vede, tu vedi più lontano di me, diceva un cartone animato, Giuseppe Re dei Sogni. Lo conoscete? Benissimo. Lui ci ama troppo, troppo, per concederci tutto quello che gli chiediamo. Quindi ha una prospettiva più ampia. Ha un piano migliore e Dio magari vuole dire di sì a quello che tu gli stai chiedendo, ma non necessariamente seguendo le modalità che tu gli stai presentando così bene nella tua preghiera, non necessariamente seguendo i tempi che tu insisti che lui rispetti. Dio ha un piano migliore, lui vuole darti quel lavoro, ma probabilmente non quello che stai chiedendo tu. Lui vuole darti, certamente vuole darti quella guarigione, ma certamente, probabilmente non adesso, o non secondo il modo che tu gli stai proponendo. Dio vuole darti una soluzione, ma che sia la sua e non la tua. È per questo che certe volte ci dice di no. Rifletti. Cioè, riflettiamo un attimo insieme. Oggi non sei grato che 10 anni fa Dio ha risposto di no alla preghiera che tu gli stavi facendo? Quanti hanno questo esempio nella propria vita? Perché? Perché oggi puoi vedere il piano migliore che lui aveva per te. 10 anni fa non lo vedevi, è chiaro. Ma oggi sì. Dio ha una prospettiva più ampia. Dio ha un piano migliore. E Dio ha uno scopo eterno per te e per me. E non metterà mai a rischio lo scopo eterno che Lui ha per me e per te, per una preghiera che con tanta insistenza gli stiamo rivolgendo. Non lo farà mai, perché un padre non farebbe mai una cosa del genere. Un padre che ama i propri figli. Il suo scopo con te non è quello di darti una vita tranquilla e semplificata dai sì che lui ti potrebbe dare a ogni preghiera. Ma il suo scopo con te, ascoltami bene, è che tu possa crescere in pazienza, in costanza, in autocontrollo, che tu possa crescere e arrivare, come Efesini 4 dice, arrivare alla statura di Cristo. Paolo l'aveva capito benissimo questo fatto. Lui sapeva che Dio per lui aveva uno scopo eterno molto più grande che magari liberarlo da questa spina nel fianco. Ed è per questo che Paolo dice, che Paolo accetta il no e dice: la sua grazia mi basta. Mi basta. E io mi glorierò più delle mie debolezze, più dei no che ho ricevuto, piuttosto che altro. Quella spina nel fianco per Paolo significava: ehi, tu hai le rivelazioni, fai miracoli, fondi le chiese, stai scrivendo un libro che tra secoli e secoli ancora leggeranno, ma non dipende da te. Non ti insuperbire, non ti inorgoglire, non dipende da te. È la mia grazia che ti basta. Tu puoi fare, puoi vivere tutto quello che stai vivendo perché ci sono io in te, perché vivo io con te. E forse Paolo avrebbe potuto insuperbirsi, avrebbe potuto vantarsi delle cose che lui stava facendo, e Dio, che ha una prospettiva più ampia, gliel'ha risparmiato a suo modo, con questa spina, ma gliel'ha risparmiato. E la stessa cosa vuole fare con te. Sapete, chiesa, non c'è niente capace di far uscire il nostro vero carattere quanto sono capaci no che Dio ci dice, di far uscire quello che veramente sta nel nostro cuore, nel nostro carattere. E Paolo il test del no l'ha passato. Io il test del no diciamo che sono stata rimandata un paio di volte. Però quanto è bello, cioè è bellissimo che il Signore non ci boccia, ci rimanda. E ci rimanda una volta, e una volta ancora, e una volta ancora, fin quando il nostro cuore diventa come il suo, fin quando la nostra costanza diventa come lui la vuole, fin quando lo scopo eterno che Dio ha per noi si realizza. E allora, concludendo, accettare questi no, anche dopo questo meraviglioso discorso che ho fatto, rimane difficile, cioè rimane antipatico. E allora possiamo resistere ai no di Dio e peccare. E io ti dico, per piacere, non lo fare. Io conosco tante persone che non sono venute più in chiesa per un no ricevuto da Dio, perché non l'hanno accettato. Tante persone la cui relazione con Gesù non è più viva perché per quel no che non hanno accettato. Non lo fa, non resistere. Possiamo resistere, non lo facciamo. Possiamo essere risentiti. Forse questa è la categoria che più ci vede, no? Possiamo essere risentiti. L'abbiamo accettato. Abbiamo ubbidito. Però comunque siamo risentiti. Comunque c'è un po' di amarezza, c'è un po' di delusione, c'è anche un po' di rabbia nei confronti di Dio, che la doveva fare questa cosa, era così facile per lui farla, eppure ci ha detto di no. Essere risentiti vuol dire vivere delusione, vuol dire non gioire delle benedizioni che gli altri poi hanno, quelle che ci spettavano a noi. E Dio vuole guarire il cuore quando si trova in questa situazione, in questa che si sente risentito, si sente deluso dai no che Dio ci ha dato. Sapete, io ho imparato una cosa, che Dio non ha paura del nostro dolore. Cioè Dio non è che ci rimane male, che noi ci rimaniamo male. Io pensavo questo, infatti, poi sai, facciamo finta che è la relazione anche si secca. Però Dio non ha paura del tuo dolore. Dio vuole incontrarti. Dove sei? Allora, se quel no che 10 anni fa hai avuto ancora non riesci ad accettarlo, parlane con Dio. Non fare finta, parlane con Dio, confessa a Lui, includilo, perché Lui vuole fare, vuole insegnarci non a resistere ai Suoi no, non ad essere risentiti dai Suoi no, ma a rilassarci nei Suoi no, a rilassarci, perché in fondo abbiamo fiducia. Tu ti rilassi nei no che Dio ti darà, perché hai fiducia, quella fiducia che tu non capisci, però lo sai che Dio ha una prospettiva più ampia, lo sai che Dio ha un piano più grande, lo sai che Dio ha uno scopo eterno, ma di più di tutto, tu ti rilassi e hai fiducia in Gesù quando lo conosci, quando lo sai che Lui è buono, quando lo sai che Lui ti ama. Io voglio leggere un ultimo passo con voi che si trova nel Salmo 20 e dice: il Signore è buono e giusto, perciò insegnerà la via ai peccatori, guiderà gli umili nella giustizia, insegnerà agli umili la sua via. Tutti i sentieri del Signore, tutti i suoi sì, tutti i suoi aspetta, tutti i suoi no, sono bontà e verità per quelli che osservano il suo patto, per quelli che hanno fiducia in Lui, per quelli che lo conoscono. Dio è buono e giusto. Dio è buono e giusto. E sapete, noi non dobbiamo necessariamente... Allora, ci sono tanti no nella mia vita che io oggi posso vedere la prospettiva, il piano, tutto. Posso vedere, ho capito il perché Dio mi ha detto di no. Ci sono altri no che io non vedo ancora niente della prospettiva, del piano e di tutto il resto. Ma nel processo di crescita ho imparato una cosa che è molto importante: fissare lo sguardo sul viso di Gesù piuttosto che sulle sue mani, perché quello che le sue mani possono fare noi possiamo anche non capirlo, ma quando lo conosciamo allora ci possiamo rilassare, perché non dobbiamo necessariamente capire le risposte di Gesù per sapere che Lui ci ama. E quindi il mio incoraggiamento per me, che sono nel processo, e per noi come Chiesa, è che noi impariamo a incassare bene i no, perché non siamo né i primi né gli ultimi, perché quelli che abbiamo ricevuto non saranno gli ultimi no. Forse li abbiamo vissuti malissimo, e va bene, capita, però possiamo viverli meglio. Quanti vogliono viverlo meglio? Tutto questo che Dio dice no, che noi ci rimaniamo male, che noi siamo risentiti oppure che noi pecchiamo, quanti lo vogliono vivere meglio? Posso vedere le mani? Allora perché non ci alziamo? E io voglio prendere 2 minuti e vorrei che tu pregassi nel tuo cuore, ti rivolgessi a Gesù e vorrei che tu gli chiedessi scusa. E che prendessi l'impegno, o comunque che gli chiedessi aiuto per vivere bene i no che Lui ti dà, perché Lui ti ama. È chiaro? Ok, allora chiudiamo i nostri occhi, rimaniamo concentrati e esprimi la tua preghiera a Dio nel tuo cuore e poi pregherò per voi. Signore Gesù, io ti voglio ringraziare perché tu sei un Dio buono e giusto, e perché tutti i tuoi sentieri sono di bontà e di giustizia. E Gesù, io per me e anche per la mia Chiesa ti voglio chiedere scusa se tante volte ci inorgogliamo e non accettiamo la tua volontà, non accettiamo i tuoi no. E c'è amarezza nel nostro cuore, e c'è disubbidienza nelle nostre azioni, e la relazione che abbiamo con te non è più come quella di una volta. Io ti chiedo perdono, ma ancora di più, Gesù, io ti chiedo che tu possa oggi incontrare e toccare tutti i cuori che vivono delusione, che vivono amarezza, che non hanno accettato quel no, che ancora non riescono a vedere il tuo piano migliore. Gesù, tocca e consola e guarisci, perché tu lo puoi fare, tu lo vuoi fare. E insegnaci, Gesù, insegnaci ad essere dei figli maturi che sono felici quando tu rispondi di sì, che sono pazienti quando tu rispondi di aspettare e che sono ubbidienti quando tu rispondi di no, perché noi ci fidiamo di te e sappiamo che tu ci ami. Continua a parlare, Gesù, continua a guarire e grazie perché tu vuoi il meglio per noi. Amen.